In giorni come quelli, per dirla con le parole di una canzone che qualcuno forse ricorderà, la cosa più penosa era di trovare tra noi le facce di sempre. E invece, proseguiva il testo, invece stava cambiando la storia di ciascuno perché dai grandi fatti maturava una lezione. Per specificare di che lezione si trattasse, il ritornello esortava, non senza allegare buone ragioni, a buttare a mare le basi americane. Ahimè, sono passati 30 anni e molte, se non tutte, facce di sempre sono ancora tra noi. E le basi americane, naturalmente, anche. Anzi, è toccato un governo di facce di sempre nei cui ranghi non manca qualche ex giovanotto di belle speranze che quella canzone avrà pure cantato, un governo comunque che ha fatto il pieno dei voti di tutta la tradizione pacifista e antimilitarista della sinistra italiana, gli è toccato il compito di sanzionare non tanto l'allargamento di una base esistente, che sarebbe poca cosa, quanto la nascita in una zona di intensa urbanizzazione di quella che sarà una delle strutture belliche più importanti d'Europa, la sede di una di quelle brigate aviotrasportate cui il governo degli Stati Uniti affida, secondo le sue nuove strategie, il compito della guerra preventiva. Non c'è molto di nuovo, naturalmente. Esecutivi usi a prostrarsi a pelle di fico davanti al grande padre della Casa Bianca e alle esigenze strategiche del Pentagono siamo tristemente avvezzi. E lo hanno fatto con incrollabile unanimità tutti i governi della storia della Repubblica, dalle origini ai giorni nostri. E in questo caso, ci hanno spiegato, in questo caso non si poteva neanche fare altrimenti perché era una questione di continuità, essendo l'Italia più o meno irrevocabilmente impegnata dalle decisioni prese a suo tempo da Berlusconi e dai suoi. Sarà anche se sulla irrevocabilità di quegli impegni è lecito nutrire parecchi dubbi, ma che il governo abbia allegato proprio quella motivazione, questo sì che sembra incredibile. Preferire la continuità con Berlusconi alla continuità con la propria tradizione politica, con le speranze, le scelte, le preferenze, le idiosincrasie, se volete, dei propri cittadini elettori, non significa soltanto l'adesione senza riserva ai peggiori modelli di realpolitik. Significa rompere quel patto tra elettori ed eletti su cui si basa la vita politica nei tempi moderni. Significa essere, oltre che cinici e infidi, pericolosamente indifferenti.